Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su Controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Quattresima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Hanno collaborato a questa puntata Camilla Lattanzi, Lorenzo Guadagnucci e Valentina Reggioli. La vivisezione è inaccettabile, procura dolore e morte agli animali e frena il progresso scientifico umano. Per una legge europea a favore dei metodi alternativi servono 1 milione di firme. Puoi firmare anche online su www.stopvivisection.eu. Libera il progresso umano, afferma i diritti degli altri animali. Per le firme su carta info su restiamoanimali.wordpress.com e controradio.it. A partire dalla settimana che si sta concludendo oggi, avrete sentito in onda lo spot di Stop Vivisection, la campagna europea per raccogliere 1 milione di firme. Firmate e fate firmare tutti i vostri parenti e amici la campagna europea, e quindi sono benvenute le firme anche degli amici e parenti all'estero. Da qualche tempo è possibile fare tutto online. Prendete un documento e seguite le istruzioni del sito www.stopvivisection.eu. Nella puntata di oggi parleremo di rospi innamorati, crepe nel monolitico appoggio alla caccia del Partito Democratico e di tante amministrazioni locali, cani da guerra che furono utilizzati durante il primo conflitto mondiale. Non fosse ancora abbastanza evidente il collegamento funesto che lega il destino degli animali a quello degli umani e, per l'appunto, a quello degli umani maggiormente sfruttati. Voleremo poi a New York per parlare di approcci non violenti rispetto al tema della riduzione numerica dei topi. Sara Razzoli vi delizierà poi con la sua ricetta della settimana, una ricetta cruelty free che questa volta avrà il profumo delle spezie indiane. Già sbavo all'idea di un retrogusto al cumino a me così familiare. Valentina, la nostra attivista di prima linea, specializzata in manifestazioni e presidi, vi darà tutte le istruzioni per la prossima occasione per far risuonare la voce animalista nelle strade e nelle piazze di Roma. Siete disposti a mettervi nella pelle, nella pelliccia, nelle squame o nelle piume altrui? E allora avete trovato la giusta sintonia. Restate all'ascolto. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. E adesso il mio resoconto dell'avventura dell'andare a salvar rospi. La voce maschile che ascolterete è quella di Carlo Scoccianti, biologo, ambientalista, animalista, ecologista, direttore delle oasi Stagni WWF di Focognano e Val di Rose, situata nel comune di Campi Bisenzio alle porte di Firenze. Carlo è il coordinatore della campagna di salvataggio dei rospi alla quale ho preso parte. Siamo in macchina e stiamo facendo il punto della situazione. Il gruppo che è andato su ieri a Montepiano ha già trovato 26 coppie, ovviamente quindi animali in andata verso la zona riproduttiva e il laghetto, più una quindicina di femmine con le uova ancora sole che non hanno trovato il compagno. Contemporaneamente sono state trovate e aiutate a passare in senso inverso 22 femmine vuote che hanno già deposto le loro uova e quindi ora libere, diciamo, da questa loro mansione, corrono e via velocemente e vanno verso la campagna. I maschi invece di solito si intrattengono di più delle femmine perché ovviamente sperano di trovare un'altra signora o signorina per continuare, diciamo, l'attività. E poi fra un po' di giorni, quando finisce tutto, immediatamente tutto viene abbandonato. Sia maschi sia femmine, tutti vanno via, perché ricordiamo che gli anfibi sono animali terrestri che sono legati all'acqua solo per riprodursi. Quindi praticamente finita questa azione, tutti tornano e stanno il resto dei mesi di attività, cioè tutta l'estate fino all'inverno, in giro per la nostra campagna, boschi, colline, zone anche coltivate in maniera tradizionale con ulivi o con altre cose tipiche. E i girini invece, cioè le larve, di cui tecnicamente si dice larve, si sviluppano nell'acqua per circa un mese e mezzo a seconda delle condizioni di illuminazione, di acqua, di calore dell'acqua, di cibo da mangiare, così, e poi usciranno e anch'essi non torneranno più alla zona riproduttiva finché non saranno adulti in grado di riprodursi. In media si ritiene che un rospo, la specie bufo bufo, ci voglia in media 4 anni il maschio per diventare adulto e la femmina 5. Quindi cosa fanno in questo periodo? Stanno in giro nella nostra campagna quando è molto freddo d'inverno o è molto caldo d'estate, si infossano sotto tronchi, pietre, mucchi di foglie e vivono la loro vita terrestre. Poi, quando cominciano ad essere adulti, devono recarsi ogni anno a riprodursi. In Francia c'è noto un caso di un rospo che è stato mantenuto in cattività per vivo, appunto, per 40 anni. Il problema di fondo è che questi animali, legati, come ho detto prima, all'acqua, devono per forza raggiungere quest'acqua per riprodursi. Normalmente in campagna ci sarebbero le pozze, dei piccoli stagni, laghetti o addirittura dei ruscelli nelle anse dove l'acqua diventa più ferma, perché ricordiamoci che sono animali che hanno bisogno di acqua stagnante, no? Non corrente. Allora, il problema è che nelle nostre campagne, nel nostro tessuto agricolo europeo, storicamente l'uomo è sempre vissuto in campagna quasi dappertutto, però ha sempre mantenuto accanto a sé la riserva d'acqua per sé, per l'abbeveratoio, per il bestiame, per il lavatoio. Questo sempre, ovunque, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Da allora il boom del cemento, tutta la gente si è recata in città e abbandonato la campagna, eccetera, eccetera. Purtroppo abbiamo il grave, tristissimo caso degli allevamenti intensivi, chiusi, industriali, e quindi non c'è più l'animale all'aperto. Ecco, tutto questo ha creato che anche le pozze sono scomparse, anche le riserve d'acqua che erano una specie di costellazione ovunque sono scomparse. Quindi questi animali non sanno più dove riprodursi. Dove ancora esistono questi ambienti, talvolta sono inquinati, o addirittura inquinati per l'aggiunta da parte dell'uomo, l'immissione di pesci. I pesci sono altri vertebrati, grandi predatori, che non dovrebbero mai stare in un laghetto, in una pozzetta, solitario in un monte, perché da soli come fanno ad arrivarci? In realtà l'uomo, trasportando e rilasciando, fa questo grande danno, a volte per pescare, ahimè, e a volte comunque anche lo stesso per dare un po' di vita. L'errore è fatale, perché da quella pozza non uscirà più una libellula, una rana, un tritone, perché semplicemente questi animali si sono specializzati nell'evoluzione di milioni d'anni senza vedere i pesci, quindi non hanno nessuna difesa rispetto ai pesci, mentre la difesa loro era che i loro ambienti di solito d'estate si seccano. Dopo la riproduzione sono usciti i girini, se si seccano non cambia nulla, per un pesce cambia molto. Ecco perché i pesci non sono mai potuti convivere in quegli ambienti, perché chiaramente sarebbero morti anche con la sua ora di siccità. Il problema, diciamo, di fondo rimane che dove non si può agire con i sottopassi o le barriere, o comunque nelle prime fasi di studio di quanti animali c'è e di come fare, tocca essere lì con i volontari. Alla classica domanda che penso gli ascoltatori abbiano in testa, cioè: ma all'uomo che cosa servono gli anfibi? Che cosa rispondiamo? Allora, io essendo una persona di scienza... All'uomo, per dire, alle persone umane, ovviamente, certo, non all'uomo, certo. Maschio. No, ovviamente, ma dicevo, io da persona di scienza, no, da biologo, innanzitutto rispondo che tutto ciò che in natura c'è oggi, a questo momento dell'era talditale, quella dove siamo, tutto è utile, cioè la natura, l'evoluzione cancella automaticamente ciò che non è utile, non a se stesso, a tutto il sistema. Quindi un rospo, come un insetto, come noi, eccetera, eccetera, che siamo un po' i più sprovveduti, noi non ci ricordiamo di questo equilibrio, però serviamo all'insieme, no? Finché non è, in questo caso personale dell'uomo, non esageriamo un po' troppo come stiamo facendo. Detto questo, i rospi hanno il loro ruolo ecologico e sono un anello centrale della catena alimentare, sono anche, potrebbero essere definiti anche dei predatori di non grandi dimensioni, ma insomma abbastanza in cima alla piramide alimentare delle zone agricole. Detto questo, comunque all'uomo dovrebbero stare anche molto simpatici, semplicemente perché per caso la loro funzione risulta utile direttamente, perché ti mangia le lumachine se c'hai l'orto, ti mangia un sacco di insetti, ti mangia un sacco di anche le zanzare volendo, e quindi tutto sommato non solo i rospi, tutti gli anfibi dovrebbero stare particolarmente simpatici. Siamo arrivati, abbiamo preso i secchi e le torce e in tre, con i nostri giubbottini catari frangenti, ci siamo avviate sulla strada. Purtroppo abbiamo subito trovato due rospi schiacciati. Ecco, c'è un rospone, ci sono due rosponi bellissimi, giganteschi, che si stanno arrampicando. L'ho preso in mano. Allora, e ce n'ha sopra un altro. Questo è il maschio. Ha una specie di zaino. È una coppia. Quello nello zaino chi è? Allora, quello sopra le spalle è il suo uomo. Ah, il maschio sta aggrappato sulla schiena della femmina e si fa portare, tipo zainetta invicta. Sì. Brava. No. Anche in natura, mio Dio, gli uomini si distinguono. No, ma loro così stanno teneramente abbracciati, mi spiegava Carlo. Ah, sì. Così loro sono affettuosamente abbracciati. È un gesto amoroso. Ed è un gesto amoroso. Questa è un'altra coppia. Piangono e mettono dei suoni. Fa sentire? Abbiamo avvistato un maschio solo. Si ribella, ma finirà nel mio secchio. Vai, ok, salvo. È mio prigioniero. Mi sto affezionando ai rospi che ho nel secchio. Sono animali bellissimi, preistorici, assolutamente indifesi. Si fanno toccare, prendere in mano, senza alcuna reazione. Qualcuno tenta di saltare, soprattutto i maschi. Avvistarli è difficilissimo, perché sono completamente mimetici. Notizie, interviste, attualità. Siamo con Alberto Renzi, responsabile per il PD della Toscana della tutela e del benessere animale. E Renzi è intervenuto nelle settimane scorse sulla questione dell'autorizzazione data dalla provincia di Siena alla caccia alla volpe in tana, criticando questa decisione. Subito dopo i dirigenti toscani del PD intervennero per dire che Renzi parlava a titolo personale. Qualche tempo dopo un nuovo episodio. Un gruppo di senatori capitanati da Monica Cirinnà ha nuovamente scritto al presidente della provincia per invitarlo a ripensare, a riconsiderare la sua decisione. Anche in questo caso c'è stato un intervento del PD regionale contro in particolare tre senatori del Partito Democratico che hanno avuto in passato responsabilità di governo regionale, i senatori Mencini, Chiti e Martini, due dei quali anche presidenti della Toscana. Tutto questo ha fatto può intravedere agli animalisti, agli osservatori, la mano anche del gruppo, del punto di vista, della lobby, dicono molti, e dei cacciatori che sappiamo essere forte in Toscana, che avrebbe in qualche modo ottenuto questo richiamo all'ordine da parte del PD per i suoi esponenti che avevano espresso posizioni, secondo quel punto di vista, non ortodosse. Ecco, la prima domanda che facciamo a Lenzi è questa: il PD è così schiacciato sul punto di vista dei cacciatori? Quanto pesa questa tradizione di vicinanza, diciamo così, sul piano politico e amministrativo? C'è sempre un'influenza abbastanza importante, ecco, all'interno del nostro partito. Logicamente però possiamo dire che un po' è cambiato dal 2011, quando la senatrice Amati ha avuto l'incarico, ecco, di organizzare appunto un nuovo gruppo di lavoro tutela e benessere animale. È stato dato l'incarico a me per la Toscana e insieme infatti alla senatrice Amati stiamo realizzando diverse iniziative, come anche abbiamo fatto nella campagna elettorale nazionale, quando abbiamo fatto sottoscrivere alla segreteria e a Bersani stesso all'interno dell'Italia Bene Comune il nostro manifesto, dove prendevamo degli impegni contro la vivisezione, contro l'abbandono e l'andagismo, per esempio anche il tema del cavallo come animale d'affezione, temi come legati alla CITES per i circhi. Insomma, abbiamo preso diversi spunti, anche rapportandoci con le associazioni animaliste come l'EMPA, la LAV e altre, la Lega del Cane. Il primo giorno di nuova legislatura la senatrice Amati, a nome di tutti logicamente, ha presentato 6 disegni di legge proprio sul tema benessere e tutela animale. Questo insomma è un passo significativo di come stia cambiato il nostro approccio, ecco, anche a questo tema, anche se non è condiviso ancora logicamente da tutto il partito. Questo significa che la cultura animalista sta facendo breccia anche all'interno del PD? In che modo si può riscontrare questa legittimazione di questo punto di vista? Sta facendo breccia perché ci stiamo anche proprio strutturando, io faccio l'esempio qui della Toscana, insieme a un gruppo di lavoro composto sia dalle associazioni animaliste che logicamente coinvolgo per sapere dove sono i punti dove intervenire, le criticità, insieme a dei nostri responsabili che sono stati selezionati in ogni provincia, quindi ho fatto un responsabile per ogni provincia toscana. E quindi ci stiamo proprio anche strutturando su questo tema, come anche per esempio un aspetto importante è quello di dare voce a quello che è il sentimento animalista anche nella formazione, anche nelle scuole di partito che creeranno poi i nostri nuovi dirigenti, alle feste, anche all'interno delle amministrazioni stesse. Ecco, in prospettiva è pensabile che i futuri amministratori locali saranno più liberi dalla soggezione che forse storicamente c'è stata in Toscana rispetto al tema della caccia e quindi anche all'indifferenza, se vogliamo, rispetto ai diritti e alla tutela degli animali. Sì, che il tema, diciamo, questo sentimento è di nuova, diciamo, è gestito da poco da noi, è un tema che abbiamo fatto nostro da poco, è indubbio. Non solo qui in Toscana, ma anche in altre regioni ci stiamo strutturando e penso che questo sia anche un qualcosa che deve cambiare piano piano anche gli equilibri tra l'aspetto del rispetto animale e quello che è l'ambito, per esempio, venatorio. Qui in Toscana abbiamo fatto una petizione, una raccolta di firme, dove chiediamo appunto anche di contarci, cioè di darci gli strumenti per poter porci anche proprio al partito regionale e presentarci con un numero di sostenitori, vorrebbe dire di sensibili al tema animale, che supera, e siamo sicuri che lo supera, visto che in Italia sono 87% sono sensibili al sentimento del benessere animale, e quindi forse come tra virgolette antagonisti dell'ambito venatorio, perché tanto laddove non ci sarà uno specifico numero registrato dove potrà competere con l'altra parte, che invece è conosciuta, perché il dato per esempio dei cacciatori sono, nel 2011 erano 100.000 in Toscana. È un tema che possiamo affrontare e possiamo dare un'impostazione politica diversa. Io parlo ora del Partito Democratico perché siamo noi qui a governare, ma in altre regioni può essere anche un altro partito, se c'è la consapevolezza certa di quanti sono poi quelli che hanno un sentimento di questo tipo. Già il fatto comunque sia che il primo partito d'Italia abbia all'interno questo sentimento è già un qualcosa di positivo. Logicamente sarà dura comunque, perché come tutte le discussioni nei partiti, chiaro che sarà difficile emergere e prevalere su altre sensibilità, però insomma ci sono tanti personaggi importanti all'interno del mio partito che hanno fatto questa scelta di appoggiare questo gruppo di lavoro, e quindi insomma sono fiducioso. Non sbaglierà, se sbaglia un altro pagherà. It's alright, but it's just alright. Yeah, New York is alright. If you like mixing spicks and spades with their own parades. Ooh, and I don't, man, I really do, yeah. E ora una buona notizia per i topi di New York e per tutti noi animali. Dopo aver tentato di sterminarli con i metodi più feroci, veleni e trappole mortali di ogni tipo, proprio come avviene quotidianamente anche nelle nostre città, la Metropolitan Transportation Authority, ovvero la società responsabile del trasporto pubblico dello Stato di New York, ha deciso di passare a un piano più gentile per fermare la diffusione dei roditori nelle strade, il controllo delle nascite. Le autorità newyorkesi si sono rivolte alla SenesTech Inc., una società di biotecnologia dell'Arizona che ha realizzato il ContraPest, che per la prima volta verrà usato in una città. In sintesi, si tratta di una pillola, aromatizzata ai gusti preferiti dai ratti della grande mela, che induce la sterilità permanente nei ratti femmine. Il prodotto è già stato usato in ambienti rurali, dove la popolazione di roditori è stata ridotta senza danneggiare altri animali e colture. Secondo gli esperti newyorkesi, questo nuovo approccio gentile verso i roditori potrebbe finalmente essere quello giusto. I veleni mortali usati finora, infatti, non solo hanno fatto morire tra i dolori più atroci centinaia di migliaia di topi, ma sono stati anche un fallimento, dato che il numero di topi nelle strade non è affatto diminuito. Il fatto è, spiegano alcuni esperti, che uccidendo molti ratti non si fa altro che abbassare la competizione per il cibo e rendere i superstiti più sani e fertili. Il nostro prodotto non è stato progettato per eliminare una specie, ha spiegato Loretta Meyer, cofondatrice della SenesTech. Questo è un errore umano che non deve essere ripetuto. E noi, insieme ai topi di New York, incrociamo le dita. Un saluto da Beatrice Montini. Il 28 di aprile 2013 si svolgerà a Roma una grande marcia organizzata da Animal Amnesty e Coordinamento Antispecista per celebrare una data storica per il movimento in difesa dei diritti animali. Nello stesso giorno del 2012 a Green Hill ha avuto luogo una delle più importanti liberazioni animali della storia. Quel momento e quelle immagini di cuccioli liberati e passate attraverso il filo spinato sono diventati icone per tutto il movimento di liberazione animale e noi crediamo che quel giorno sarà ricordato per molto tempo. Per questo vogliamo che il 28 aprile diventi la giornata della liberazione animale. Quel giorno ha scosso le coscienze e aperto gli occhi in tutto il mondo. Nei giorni e nelle settimane immediatamente a seguire, ovunque, la gente ha organizzato dimostrazioni e marce per mostrare solidarietà alle 12 persone arrestate per quella liberazione. Il 28 aprile 2013 ci aspettiamo una vera e propria invasione di gente a Roma per chiedere al nostro governo di fermare tutte le crudeltà verso gli animali e per dimostrare a tutti che questo movimento sta diventando sempre più grande e che la liberazione animale non è solo un sogno, ma presto sarà realtà. Facciamo vedere al mondo che la libertà e la giustizia sono il nostro obiettivo comune e che lotteremo finché l'ultimo animale sarà liberato. Da Firenze ad Arezzo e nella zona del Val d'Arno partiranno dei pullman, Per la prenotazione obbligatoria mandare un'email a gat.pullmandellaliberazione@hotmail.it. Nella mail di prenotazione scrivere nome e cognome, telefono, luogo di provenienza e la fermata di salita, quindi Arezzo, Montevarchi o Firenze. In particolare le partenze saranno da Firenze davanti al Lobby Hall, Montevarchi, Casello A1 Valdarno, Arezzo, Casello A1. Mi raccomando, è necessaria la partecipazione massiccia di tutti. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Oggi parliamo di un piatto etnico, il riso basmati all'indiana, detto anche riso pulao. Se amate le spezie e i sapori esotici, allora provatelo, perché è profumatissimo e delizioso. Gli ingredienti per 4 persone sono 350 g di riso basmati, 100 g di mandorle pelate, 60 g di uvetta fatta rinvenire in un po' d'acqua tiepida, olio di semi di mais, curcuma, cumino e abbondante curry. Portate a ebollizione in una pentola dell'acqua leggermente salata con cui cuocerete il riso. La quantità d'acqua è circa 2 volte il volume del riso. In un altro tegame bello grande fate scaldare nell'olio il curry, la curcuma e il cumino. Se come me avete i semi interi, spezzettateli prima un po' con un coltello. Aggiungete le mandorle spezzettate e l'uvetta. Sentirete che profumino delizioso. Quando iniziano a soffriggere, unite il riso e fatelo tostare velocemente. Aggiungete ora l'acqua calda e lasciate cuocere a fiamma bassa fino al completo assorbimento. Ci vorranno circa 10 minuti. Se l'avete, prima di servire, spolverate con erba cipollina tritata. Questo riso è un ottimo abbinamento da servire bello caldo con piatti di verdure e legumi, come il classico dal di lenticchie, ma a me piace moltissimo anche da solo. Ciao, alla prossima! Perle agli umani, letteratura per la liberazione. Oh yeah, watch me steady, yeah. Watch me with such a quiet sincerity. La Grande Guerra, fra il 1914 e il 1918, è un evento che ha sconvolto e cambiato profondamente la storia d'Europa. Milioni di persone hanno perso la vita in quel conflitto, molto si è scritto, si è detto, si è raccontato della Prima Guerra Mondiale. Poco si sa invece della sorte che ha riguardato in quel periodo gli animali che furono coinvolti nel conflitto. A quell'epoca, con pochi mezzi di trasporto a motore disponibili, si fece grande impiego dei cavalli, ma ci fu anche un utilizzo molto importante dei cani. È un risvolto di quell'epoca storica che un libro di Roberto Todero prova a mettere a fuoco. Si intitola Cani e soldati nella Prima Guerra Mondiale, 4 zampe al servizio dell'umanità nell'esercito asburgico. È un libro pubblicato dall'editore Gaspari e che raccoglie una serie molto molto bella, molto interessante di fotografie e di documenti. Si scopre attraverso questo libro la nozione di cani da guerra, che aveva nell'esercito austriaco una precisa codificazione. L'accuratezza burocratica da questo punto di vista era assolutamente straordinaria, con regolamenti, con una disciplina molto precisa di come si dovessero anche trattare gli animali in servizio militare. Esistevano due grandi categorie di cani da guerra, quelli adibiti al trasporto, al carico, che si trattasse di materiali per costruire trincee, per gli approvvigionamenti o anche per cannoni e cannoncini. E poi i cani della sanità, che ebbero un ruolo importantissimo nei servizi infermieristici e medici. I cani da guerra erano ovviamente inviati al fronte dopo un addestramento che coinvolgeva anche i loro conduttori. L'esercito austro-ungarico molto opportunamente prevedeva che ci fossero due conduttori per ogni cane, in modo che nel caso che uno dei due uomini venisse meno, morisse, fosse ferito, il cane avesse sempre un punto di riferimento per la sua attività. Nel libro di Todero non si riesce a stabilire con precisione quanti fossero i cani arruolati nell'esercito austro-ungarico. In compenso c'è una stima che riguarda l'esercito tedesco. Ebbene, anche la Germania fece ricorso ai cani da guerra, che furono circa 30.000. È impressionante quanti pochi arrivarono alla fine della guerra e furono restituiti ai loro proprietari. Appena il 10%. Un'autentica decimazione. Leggendo il libro di Todero si apprende che fra il 15 e il 16 nell'Austria-Ungheria furono indette delle autentiche leve canine per animali da spedire in guerra. Si ricorse anche ad annunci pubblicati sui quotidiani. L'autore ne ha trovato uno sul Piccolo di Trieste del gennaio del 15 che diceva così: «La leva canina. Le autorità intimano ai possessori di cani poliziotto la notifica per l'invio delle bestie all'addestramento negli appositi campi. Fra le razze vengono preferiti il terrier, il pastore tedesco, il Rottweiler e il Doberman. Meglio ancora, ovviamente, se già addestrati». Più preciso e più dettagliato, un altro annuncio comparso sul giornale Il Lavoratore, pubblicato dal Partito Socialista Italiano in Austria, diceva così: «I cani da acquistarsi per uso dell'esercito. Con riferimento all'anteriore notificazione del 29 marzo e in seguito a nota del Comando Militare di Graz, si porta a pubblica notizia che tutti i possessori di cani notificati nei giorni 10, 11, 12, 13, 15 e 18 aprile devono tenersi pronti di presentarsi al primo avviso con i loro cani nel piazzale della Ferrovia dello Stato a Trieste. Ogni proprietario dovrà portare seco una razione per 3 giorni col relativo recipiente, inoltre un guinzaglio, una museruola e una coperta, che, se trovati corrispondenti, saranno risarciti in contanti in base alla stima. I cani trovati abili saranno sottoposti a stima e, all'atto della consegna, pagati in contanti. Per le spese inerenti al trasporto dei cani inabili e degli attrezzi dal luogo di dimora al luogo di consegna è prevista da parte del Ministero della Guerra un adeguato risarcimento». Gli addestramenti avvenivano simulando delle scene di battaglia, con esplosione di colpi e soldati che si gettavano a terra per essere poi raggiunti dai cani infermieri. In questo modo furono salvati migliaia di soldati. Ne hanno dato testimonianza molti libri di memorialistica e non sono mancate nemmeno le lapidi dedicate ai cani da guerra e ai cani della sanità in particolare, che svolgevano questo prezioso servizio per i feriti. Un servizio molto pericoloso perché spesso dalla parte avversa partivano colpi proprio diretti ai cani che, abbaiando ogni volta che si avvicinavano a un ferito, diventavano un possibile obiettivo. Roberto Todero riporta il testo di una lapide, oggi scomparsa, che era stata ritrovata su Svetagora, il Monte Santo, sul fronte dell'Isonzo, dedicata a un cane femmina di nome Senta. Diceva così: «La amavamo tutti. Ha salvato più di 60 uomini e ritrovato 10 dei nostri camerati che noi davamo per dispersi. Qui ha trovato una morte degna di un'eroina. Ha sacrificato la sua vita di cane come un soldato, fedele fino all'ultimo attimo». È inutile dire che i cani da guerra furono dei coscritti, furono obbligati a compiti faticosissimi e pericolosi e furono, come abbiamo visto, anche decimati. Il libro di Todero contiene una ricchissima documentazione. In particolare ha pubblicato una raccolta di un centinaio di fotografie e cartoline che erano appartenute ad un Hundeführer, un conduttore di cani, una di quelle figure che avevano la responsabilità di addestrare e poi guidare durante il combattimento questi animali. E allora si vedono immagini commoventi, cani con la pettorina della Croce Rossa, singoli cani che trascinano carretti a 2 ruote, mute di 3 cani per carretti più pesanti a 4 ruote, cani che trascinano le tighe che trasportano feriti, il tutto spesso sulla neve, in condizioni impervie. Questa dei cani da guerra è una storia triste, un'altra testimonianza dell'oppressione, dell'autoritarismo, dei quali anche gli animali erano vittime in quell'epoca. Ma è comunque una storia che merita di essere conosciuta, perché è un altro aspetto dell'antichissimo rapporto che lega l'uomo ai cani, ed anche un aspetto misconosciuto dell'orrore della prima guerra mondiale. Cause I do, dear. Yeah, I do. Yeah, I do, dear. Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Appuntamento giovedì mattina 25 aprile, festa della liberazione alle 9.50 con replica alle 16.05 per l'edizione breve di Restiamo Animali. E poi, come al solito, per la puntata numero 86, domenica 28, alle 12. Restiamo animali! Restiamo animali! Restiamo animali! Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.